due anni abbiamo vinto due scudetti e due supercoppe, quindi penso che si è fatto veramente qualcosa di bello, di straordinario in pochissimo tempo. Oggi tutti dicono che la Juve è favorita perché l'anno scorso hanno vinto, la squadra ancora è forte. So è così, ma non sempre vince il favorito. Io sono sempre stato abituato a fare fatti, a lavorare, e spesso in base a quello che si diceva l'estate, l'estate successiva è successo un pochino qualcosa di superiore e diverso. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Avevi ragione, sai, cioè è antipatico questo. No, no, ha fatto così per scherzo, dai, un po'. Sì, no, ma non perché mi ha fatto. No, ma l'ho visto bene da vicino, e te non proprio poca faccia antipatico. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. Mazzarri sicuramente è un allenatore che stimo molto. In tempi anche non sospetti, perché comunque dove è andato ha dato sempre la sua impronta. Conte è uno di quelli che secondo me è un allenatore del nuovo corso del calcio, che sta cambiando, che se Dio vuole è un allenatore che oltre a saper fare tattica, si vede come sta in campo la Juve, è anche bravo a tenere sulla corda, quindi ha una difficoltà maggiore. Mai parlato con Mazzarri? No, mai parlato con Mazzarri, non siamo neanche salutati. Io lui, da quando è entrato in campo non l'ho proprio visto, io ho visto la partita e basta. Dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Inter-Juve, la partita. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Sono troppo uguali per essere amici, solita geniale copertina di Franco Piantanida, che ringrazio dietro al vetro insieme a Fabio Cantadori. Troppo uguali per essere amici, Antonio Conte, Walter Mazzarri. Chissà se domani sera a San Siro qualcuno si inventa la Conte Mazzarri Cam, magari è la cosa più interessante della serata, perché l'aperitivo è stato gustoso quest'estate dagli Stati Uniti d'America. Mazzarri, 29 luglio, non voglio fare paragoni con la prima Juve di Conte, loro fecero un certo tipo di mercato. E poi 24 ore dopo la risposta di Conte, non mi piace sentire fesserie da chi dice che spendiamo tanto, e mi riferisco a chi dà fiato alle trombe per mettere le mani avanti e coprire i propri fallimenti. Non se le sono mandate a dire nemmeno quest'estate, quando non contava nulla. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati. Se volete seguirci su Twitter, come finisce Inter Juventus domani ore 18, preferite Conte Mazzarri, io offro un euro di tasca mia perché domani sera ci sia un qualsiasi episodio su cui Conte Mazzarri possano litigare, perché poi c'è anche Inter Juventus, però siamo alla terza giornata di campionato e scusatemi ma mi rifiuto di parlare di sfida scudetto, di prova del 9, di esame di maturità e altre scemenze. Ma quale scudetto? Siamo seri, siamo al 14 settembre. Saluto Alberto Costa, prima firma del Corriere della Sera. Ciao Alberto, buon pomeriggio. Ciao, grazie. Io mi rifiuto di parlare di sfida scudetto, anche se oggi ho letto di tutto sui giornali. Sì, beh, diciamo che noi in Italia non ci facciamo mancare niente, siamo abituati a volte a così, a lasciarci andare, a volte saltano le marcature della retorica e quindi sì, a volte escono cose magari, come dire, leggermente esagerate, come sono sostanzialmente d'accordo con quello che ti ho sentito dire, siamo soltanto alla terza di campionato, l'Inter è partita molto bene, diciamo piegando due squadre che però non sono partite altrettanto bene, visto che sia il Genoa che il Catania figurano in coda alla classifica a 0 punti. La Juve è partita anch'essa in quarta, come si suol dire, ma questo è un po' meno sorprendente. Sì, ho letto oggi Palacio, sappiamo come fermare la Juve, abbiamo il dovere di pensare allo scudetto, poi do un'occhiata alle formazioni, ad esempio alla mediana, da destra a sinistra, Jonathan, Guarin, Cambiasso, Taider, Nagatomo, contro Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba e Asamoah, e mi viene in mente che c'è una certa differenza, certo. Ma proprio una certa differenza, Alberto. Sì, beh, la differenza sulla carta è abbastanza netta. Però devo dire la verità, ma non avevo dubbi, perché Mazzarri è un tipo spigoloso, esattamente come Conte. Comunque Mazzarri è una sicurezza, bisogna riconoscere la sua bravura, perché non ricordo una stagione veramente sprecata. È un allenatore zero esoneri, credo sia l'unico in Italia, e direi forse non è ancora capitato con Zamparini, che magari riuscirebbe a esonerare anche lui, però in effetti zero esoneri in Italia vuol dire parecchio. Mazzarri ha incominciato con l'Inter da una cosa semplice, sistemando la difesa. Io sono per un calcio un po' più tradizionale, nel senso che se mi sento sicuro in difesa poi posso cercare di fare anche sfracelli in attacco. E devo dire che l'Inter, premesso che secondo me era anche impossibile fare peggio dell'anno scorso, quindi Mazzarri è partito avvantaggiato, devo dire che la sua mano si riconosce molto in questa squadra. Però parlare di sfida scudetto per l'incontro di domani è francamente grottesco. Vediamo, domani ci può fare capire come realmente è messa l'Inter, a che punto è il lavoro di ricostruzione non solo tecnica ma anche di morale, di convinzione nei propri mezzi, di una squadra che l'anno scorso aveva finito la stagione mollando tutto e finendo, mi pare, a più di 30 punti. Sì, 54 Juve, 33, punti, il minimo storico dell'ultimo ventennio per l'Inter. A me ha fatto molta tenerezza, ieri ho visto l'intervista di Stramaccioni che ha detto forse ho pagato un po' la mia inesperienza, ha pagato tanto, certo è che Mazzarri sta giocando con 10 undicesimi della squadra che aveva in mano Mazzarri, che aveva in mano Stramaccioni, e anche questo è un dato certamente su cui riflettere. A che punto è invece il lavoro di ricostruzione di Kakà da parte di Allegri? Ma credo che per Kakà, dunque, io sono uno, adesso sicuramente chi ci sta ascoltando non credo che tutti saranno d'accordo con me, però io parto da una premessa, che è meglio un Kakà al 50% di quello che ricordavamo del Kakà che avevamo lasciato, ti faccio per dire, di alcuni sedicenti campioni che giocano attualmente nel Milan al 100%. Quindi Kakà, a mio modo di vedere, al momento è soltanto una questione di messa a punto, di trovare, come si dice in gergo, la gamba. Lui è sostanzialmente fermo da un sacco di anni. Sì, ha fatto 9 partite per 90 minuti nelle ultime 3 stagioni. Esatto, ecco. È un numero che si commenta da solo. Sì, non c'è bisogno in effetti commentarlo. Direi che però Kakà può portare comunque la sua qualità in questa squadra. Io sono convinto, i ritorni al Milan non hanno mai pagato, in tutta sincerità ricordo Gullit, ma soprattutto Sheva quando è tornato è stato abbastanza deludente. Io sono invece convinto che Kakà porterà qualcosa a questa squadra, un giocatore di qualità. Ho parlato proprio pochi giorni fa, diciamo non più di 3-4 giorni fa, con Ancelotti, e ci siamo messi a ricordare i tempi con Kakà, e lui di Riccardo mi ha detto: guarda, perché qui lui mi ha spiegato, abbiamo una rosa ultra competitiva, sì, non era possibile rimanere, non era, però dice guarda, lui non è messo male, anzi. E si parlava delle sue famose progressioni, come quella che a Bruges lo portò a segnare un gol fondamentale in Coppa dei Campioni partendo da metà campo. Secondo Ancelotti le famose progressioni ci di sono Kakà ancora. Ci sono ancora. Gli manca un po', ha perso nei cambi improvvisi di direzione. Vedremo Alberto da domani sera, perché oggi Allegri ha annunciato che Kakà quasi certamente parte dal primo minuto. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta di pronostici su Inter Juventus. Ne stanno arrivando tanti, il 349 238 6666. Luca finisce 0-0, finisce 3-1 per la Juventus, matematico. Nico, 3-1 anche per Filippo da Lucca. Alvarez, doppietta di Tevez, gol di Lorente, e poi c'è anche chi scherza, è incredibile offerta, attiva anche tu la tua nuova Intercard, oggi parli gratis, da domani sera non parli più. Secondo me questo è un tifoso della Juventus. Alberto Costa, per chiudere il discorso sul Milan, domani ancora panchina, mi pare di aver capito, per il Sharawi. Va bene che Galliani e Allegri ci stanno spiegando che non è un caso, però prima o poi il discorso andrà affrontato. Beh, questo è evidente, insomma, il Milan, che se ne dica, ha cercato di vedere se era possibile cedere questo ragazzo. A maggior ragione adesso che il modulo per ordine di Berlusconi è cambiato, che Berlusconi insiste, lui vuole il trequartista e le due punte, mentre Allegri, dopo i vari vertici che si sono succeduti nell'ultimo anno, anno e mezzo ad Arcore, ha sempre poi lentamente sempre ritornato al 4-3-3. Il modulo con le due punte non favorisce certo il Sharawi, ma a mio modo di vedere il Milan o ha il sospetto, credo che il Milan abbia il sospetto che Stefan più di tanto non possa dare. Sì, che quello visto nei primi sei mesi meglio della scorsa stagione non Allegri, sia il vero Sharawi. Esatto, Allegri più volte tra le righe, se si è facendoci caso, ha sottolineato come lui dovrebbe variare di più il suo repertorio, mentre ha un tipo di gioco leggermente monocorde. Ecco, credo che nell'intimo dei vertici del Milan ci sia questo sospetto, però insomma il ragazzo ha dei numeri indiscutibili. Sì, merita certamente di essere aspettato, non c'è dubbio. Vale anche per Prandelli, bisogna vedere cosa ne sarà poi a maggio, perché in attacco le idee non mi sembrano chiarissime dal punto di vista della nostra nazionale che andrà in Brasile. Alberto Costa, da domenica in edicola insieme alla Gazzetta, al Corriere della Sera, scusate, con il grande libro dello scudetto, 261 pagine per fare storia, analisi, insomma raccontare tutte le 68 vincitrici dello scudetto del dopoguerra. Certo. Magari poi ci dici chi sarà la 69esima, però è il modo per avere sott'occhio una fotografia di questa storia del nostro campionato. Sì, esatto, è un libro che verrà possibile acquistare in edicola con il Corriere della Sera, 9,90 euro più il prezzo del quotidiano, e per la prima volta credo in maniera organica viene raccontata la storia di tutti gli scudetti, cioè, tutto insieme. Tutto insieme, sì, ogni squadra che ha vinto lo scudetto in un determinato anno ha a disposizione, sono tre pagine. Quindi ogni informazione possibile. Conti, esatto, cifre, numeri. Questo per i malati di statistica e non solo, Alberto, poi, perché esatto, poi c'è anche il racconto del campionato e anche esatto, del contesto sociale di quella, esatto, di quella stagione. Gli avvenimenti per inquadrare quello che succedeva in quell'anno mentre la determinata squadra vinceva. C'è certo, poi una seconda sezione di attualità. E poi c'è anche tutta l'attualità. Ci sono tutte le rose, c'è tutto quello che serve per seguire questo campionato. Esatto. Il grande libro dello scudetto. Grazie ad Alberto Costa. Ciao, grazie. Ciao Alberto, grazie. Ci ha raggiunto intanto Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore, perché proprio in questi minuti in Lega Calcio si sta disputando, io credo, solo il primo atto della battaglia del grano dei diritti TV. Sì, non è ancora cominciata, mentre scendevo qui ho avuto le ultime notizie e il clima... Ti sono già presi a cazzotti? Non ancora, per ora si è amabilmente mangiato e ora si inizierà a discutere, ma le porte come nei conclavi non si sono ancora chiuse, quindi qualche indiscrezione c'è. Sì, si inizierà a discutere su chi mangerà più o meno a partire dal 2015, perché di questo parliamo, dei bandi per i diritti TV a partire dal 2015, è qualcosa che potrebbe anche cambiare la vita di tutti noi nei fine settimana, perché potrebbero cambiare i palinsesti, c'è questa ricerca disperata dei soldi che potrebbe far fare qualche scelta differente rispetto a quello che è stata sin qui l'offerta televisiva. Sì, parliamo del 65, 66, forse 70 in alcune stagioni, fatturato dell'intera Serie A, quindi quanto incassano i 20 club di Serie A, troppo, nel senso che dovrebbero imparare, come negli altri campionati, i nostri club a dipendere meno dalla televisione, ma tant'è, questo è lo scenario. Aumentare i ricavi su altri fronti richiede processi lunghi che si addicono poco evidentemente all'italianità. Detto questo, si è aperta una battaglia, una guerra, soprattutto devo dire sui giornali, attorno a questi contratti, attorno a questi presunti o reali conflitti di interesse. Sì, e ci tra siamo appassionati tutti alla vicenda dell'Ape Regina, collaboratrice di Infront, legata al Milan, al mondo Mediaset, e ovviamente si sono scatenati tutti i doppiogiochisti, tutti quelli che amano scrivere di questi scenari. Questo paese, poi mi sembra il paese delle verginelle, dove poi ogni tanto uno si sveglia e scopre che ci sono amicizie, legami. Voglio dire, la vicinanza, vero o presunta che sia, di Bogarelli, che è il presidente di Infront, a Galliani, oppure la vicinanza, che bastava leggere il curriculum, era nota anche quando i contratti sono stati approvati, firmati, e quindi voglio dire, mi sembrano polemiche sterili se le guardiamo nell'interesse complessivo del calcio italiano. Io stamattina ho pubblicato sul giornale e sul sito un articolo in cui sono andato a guardare quelle che sono state le gare per affidare l'incarico di advisor ad Infront, e per esempio tema molto discusso, quello della vendita all'estero dei diritti TV, chi ha partecipato a quelle gare? Ebbene, quelle gare sono state fatte, le offerte di Infront erano più alte, Infront garantiva 900 milioni, AMG, che si è classificata seconda per quanto riguarda, era sotto di 50 milioni, così come a livello di diritti esteri l'AMP Silva, che ha vinto il bando e che commercializza all'estero il campionato di Serie A, ha offerto di più, 140 milioni contro 90, 114 milioni a salire, 120 nella prossima stagione, contro una novantina degli altri. Però offerenti. A noi piace, è inutile che stiamo a girarci intorno. Beh, un gioco, Marco, italiano, ci stiamo anche noi. Sui retroscena, su cercare di capire, anche perché esistono poi rapporti di forza, che Galliani e Lotito in questo momento siano un po' i padroni in Lega Calcio, e quindi i padroni del calcio italiano non lo scopriamo certo noi oggi. Però ci interessa anche Inter-Juventus di domani sera, 800-24-00-24, i vostri pronostici. 1-0 Inter, Milito su rigore inesistente al 94esimo, Antonio da Ciampino. C'è un altro amico che ci dice: vuol dire che questa è la prima stagione in cui Mazzarri farà male, perché Mazzarri fin qui è, credo, l'unico allenatore con zero esoneri. Giorgio da Milano, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Volevo fare una considerazione. Dica. Io sono un tifoso interista, ho visto che per la partita Sassuolo-Inter i biglietti per il settore ospiti costano 30 euro. Sì. Invece per Sassuolo-Livorno, settore ospiti, 15 euro. Mm. Cioè, posso capire che l'Inter ha più appeal del Livorno, però cioè, anche un tifoso che vuole andare in trasferta a questo punto non ci va più. Sì, ho l'impressione però, Giorgio, che si sia dato la risposta da solo. Ovviamente il Sassuolo cercherà di ottimizzare il più possibile l'incasso della partita contro l'Inter. Immagino che il prezzo sarà identico contro il Milan, contro la Juventus, magari contro la Roma, forse contro il Napoli. È la legge del mercato. Credo che non faranno fatica a riempire il settore ospiti in quella giornata, quindi dal mio punto di vista significa che il prezzo è giusto, purtroppo, aggiungo, però il prezzo è giusto. A proposito di prezzi, Marco Bellinazzo, si balla intorno a questa cifra, 1 miliardo di euro, 900 milioni, che è quello che in questo momento vale il calcio italiano dal punto di vista dei diritti televisivi. Il mio pensiero è che non li valga veramente, gode di un contratto in questo momento superiore a quelle che sono le potenzialità che esprime, e ho l'impressione che i presidenti di Serie A abbiano paura che dal 2015 questa torta diventi progressivamente più piccola. Credo che sia questo in realtà il nodo attorno a cui si discute. È chiaro che questo è il timore, così come c'è la preoccupazione che per esempio un advisor che svolge comunque il suo lavoro, che attualmente è Infront, ricordiamo che ha un contratto fino al 30 giugno 2016, diciamo, guadagni troppo, almeno questa è la visione magari della Juventus e delle altre sei squadre che hanno scritto la famosa lettera a fine agosto, queste famose commissioni da 30 e passa milioni di euro, poi contestavano il sistema, e quindi c'è l'idea magari di poter vendere da soli questi diritti. C'è però da fare i conti con uno scenario economico che sicuramente in Italia vede i prezzi degli abbonamenti per i pacchetti calcio che sono i più bassi d'Europa. Il trend sicuramente lo sappiamo, insomma, è quello, un trend negativo dal punto di vista delle prospettive dell'economia, e quindi è evidente che il problema è la paura di fronte a una torta che si rimpicciolisce di doverla dividere in troppi, tant'è vero che a un certo punto qualcuno aveva anche lanciato l'idea di tornare a 18 squadre la Serie A, ma non c'erano appunto intenti sportivi, semplicemente di tipo economico e aggiungo io miopi, nel momento in cui la partita deve essere quella di cercare di vendere meglio possibile i diritti della nostra Serie A, i diritti domestici, cercare di migliorare l'appeal del nostro campionato, il che significa migliorare le squadre, migliorare gli stadi, migliorare in poche parole lo spettacolo. Sì, sarebbe bello anche che qualcuna delle squadre di seconda fascia che adesso di soldi ne prendono investisse invece di vendere, non svendere, ho detto vendere bene i propri giocatori, basta, a tutte le stati, basta che ogni riferimento pensare al fatto che semplicemente una squadra che dalla B arriva alla A raddoppia o triplica il suo fatturato in un anno, e quindi quei soldi dovrebbero essere finalizzati, come avviene in Premier, dove c'è un sistema molto democratico, molto più democratico che in Italia, di ripartire di questi diritti TV, servono a quelle squadre per aumentare la PIL. Questo significa che l'intero campionato acquista PIL, e poi ci meravigliamo se per esempio in Bundesliga o in Premier i nuovi contratti televisivi hanno visto raddoppia del 50 e del 70%. Assolutamente superiori ai nostri. 800 24 00 24, io vi dico la mia, di Inter-Juventus di domani sera non me ne frega niente, a me interessa di più Conte-Mazzarri, perché credo che una partita alla terza giornata di campionato non abbia nessun significato sulla classifica, ma forse nemmeno nessun significato tecnico. Ditemi che cosa ne pensate. 800 24 00 24. Ci fermiamo. Meteo, borsa, poi parliamo anche di Toir, caro Marco Bellinazzo. Lo temevo. Come c'è quella rivalità, quell'antipatia calcistica tra noi, il Milan e l'Inter, adesso c'è anche con il Napoli. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. C'è chi chiede se per migliorare lo spettacolo del nostro calcio non sia meglio portare a 16 il numero delle squadre di Serie A. Certamente aiuterebbe, però qui stiamo facendo un discorso diverso, un discorso legato a una torta che diventerà più piccola, quella dei diritti TV, e quindi i presidenti cercano di far sedere un paio di presidenti in meno alla tavola. Francesco dalla provincia di Vicenza, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Guardi, io volevo porre il problema della possibilità di vedere le partite italiane all'estero. Io vado sempre in Spagna praticamente nessuno segue il campionato italiano, la motivazione non è tanto il calcio, tattico, non tattico, gol, non gol, sono gli stadi vuoti. In Spagna non voglio vedere una partita in cui si vedono stadi praticamente vuoti. E invece di lavorare su riportare gli spettatori allo stadio, ci si mangia praticamente la torta sempre più piccola. Io la trovo un'assurdità. Lavoriamo sul portare la gente agli stadi e poi parliamo di vendere i diritti all'estero e portare il calcio italiano all'estero. Sì, le dirò di più, Francesco, se ne sono accorti anche i dirigenti italiani. Quest'anno Inter e Milan non hanno venduto gli abbonamenti del terzo anello proprio per cercare di concentrare il più possibile i tifosi nei primi due anelli, fare massa, dare un colpo d'occhio migliore. C'è questo problema, c'è il problema ad esempio nelle notturne della luminosità di alcuni stadi di provincia. Ci sono partite che sono inguardabili proprio dal punto di vista televisivo. Ci vorrebbero degli standard minimi da rispettare ovunque. Non è necessario avere uno stadio a 5 stelle o uno stadio di proprietà come quello che farà l'Udinese, bellissimo. Così rispondo ad Aldo che ha scritto su Twitter: l'Udinese sta facendo bene, però sta facendo un'altra cosa, non fa calcio, fa industria. L'Udinese prende tanti soldi dalle TV italiane, potrebbe anche reinvestire qualcosa per cercare di fare il salto di qualità. Questo è quello che penso io. Giovanni da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. A proposito di notturna e di numeri, insomma, parlavo del derby di Genova che è passato molto in secondo piano, giustamente per motivi tecnici e sportivi, ma quanto a passione, quanto a numeri, diciamo i 120 anni, se non ricordo male, insomma, sì, della squadra, francamente siamo la storia del calcio. e non va passato in secondo piano. Abbiamo avuto messaggi da parte di tutta Europa, squadre tipo lo Sheffield con cui abbiamo fatto tornei estivi. È un prodotto che va esportato anche per la storia, per la caratteristica che ha il calcio nel mondo, non solo quelle 3-4 squadre che vendono prodotto di merchandising, ma abbiamo una parte di storia, il nostro paese in primis, ma anche alcune squadre di calcio. Il Genoa sicuramente ha un piccolo appeal. Il Genoa ha certamente un piccolo appeal che può diventare un grande appeal come fascino. Queste poi sono storie che piacciono nel mondo anglosassone. Si è visto anche quest'estate, Marco Bellinazzo, il Genoa ha organizzato i suoi festeggiamenti coinvolgendo squadre inglesi. Però poi io vi invito a non continuare a prendersela con chi parla di Inter, Milan, Juventus. Anche noi lo facciamo, perché poi è il mercato che sceglie, e queste squadre fanno insieme il 70-80% dei sostenitori, il Napoli, di tutta la Serie A, e quindi a quel mercato bisogna rifarsi, è lì che bisogna provare a fare il salto di qualità, Marco. Indubbiamente c'è la necessità, non solo l'opportunità, di valorizzare tutti gli elementi del calcio italiano, e sicuramente la storia, la cultura che c'è dietro tante storie sportive come appunto quello del Genoa sono un valore aggiunto. Anche, aggiungo, in questo settore fatichiamo ad esportare le bellezze del paese e a valorizzarle per quelle che sono. Detto questo, non montiamoci troppo la testa, perché se poi andiamo a confrontare, come alcuni club in Lega stanno chiedendo, i valori economici della Serie A, quella Premier, chiaramente facciamo un'operazione fasulla, perché in questo momento la bellezza del campionato inglese non è assolutamente paragonabile a quella del campionato italiano, perché abbiamo perso troppo. Sì, ma proprio come immagine. E dovremo lavorare tanto. Lo sentiamo Stramaccioni, noi ne abbiamo parlato prima con Alberto Costa. Stramaccioni, ieri il suo bilancio della stagione all'Inter. Io con il mio presidente, con il mio ex presidente, ho parlato tantissimo e parlavo quotidianamente. Quello che è successo negli ultimi 10 giorni tra la partita con il Genoa e la fine del campionato è una cosa che innanzitutto non sono un tipo che sputa e sputerà mai nel piatto dove ha mangiato, e soprattutto per rispetto ai tifosi dell'Inter che mi sono stati vicini e mi hanno voluto bene fino alla fine, è una cosa che mi porterò dentro di me e che è un capitolo per me oggi assolutamente chiuso. Da gennaio sicuramente abbiamo cominciato ad avere tanti problemi, anche un pizzico di sfortuna nell'intensità, nella frequenza dei giocatori che andavamo perdendo, su tutti probabilmente Samuel, Milito, e poi penso che con Palacio, Zanetti, i giocatori poi che sono stati più importanti, ma anche gli altri. E in questo probabilmente, facendo anche, credo con intelligenza e con un'umiltà, se mi ero sentito in una posizione di grande controllo della situazione fino alla, ripeto, al giro di boa, probabilmente anche io in un momento così di emergenza e di difficoltà ho pagato sicuramente la mia inesperienza, e credo che non ci sia niente di male ad ammettere che probabilmente in quel momento anche io magari ho commesso qualche errore. Stramaccioni parlava con Moratti, risulta che Tuir parli un po' meno con Moratti. Ieri abbiamo vissuto un pomeriggio cercando di inseguire questo fantomatico gruppo cinese pronto a subentrare a Tuir nell'offerta per l'Inter, con ancora due diligence, tutti i termini che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Conferme ne abbiamo trovate poche. Che cosa sta succedendo esattamente intorno all'Inter? Beh, un po' lo abbiamo raccontato ieri qui, c'è stato qualche attrito oggettivo nella chiusura di questa trattativa per una serie di questioni legate soprattutto ad alcuni contratti che sono stati fatti dall'attuale dirigenza e per l'attuale dirigenza, rinnovi che non sono tanto piaciuti alla cordata indonesiana, penso anche al contratto con Nike, a questa sponsorizzazione ultradecennale che lega di fatto le mani della nuova proprietà. Super sponsorizzata da tutti, con cifre ci sono state rivendute come molto simili a quelle dei grandi club assolutamente, europei. Assolutamente è sicuramente un buon contatto. No. Un buon contratto però, dati i tempi e data l'attuale situazione dell'Inter, ma diciamo 13-14 milioni a stagione, se le cose vanno bene, rispetto ai 30 e passa milioni che prendono i big europei, sono insomma un divario importante, soprattutto se le prospettive devono essere quelle di un rilancio dell'Inter. Sì, certo, se Toir doveva venire in Italia per cominciare a mettere le mani proprio dal punto di vista del marketing e della comunicazione, non è molto friendly come approccio fargli trovare dei contratti decennali firmati assolutamente no. Detto questo Toir sarà. Siamo alle battute finali, naturalmente anche noi facciamo fatica a seguire questa parte finale perché le date del closing vengono continuamente rinviate, c'è un incessante lavoro di studi legali, però direi che ci sono alcune scadenze come la prossima assemblea che certificherà un buco tra i 70 e 80 milioni che dovrà comunque essere ripianato, diventano dirimenti rispetto diciamo all'esigenza evidentemente di chiudere, e la proposta Toir è l'unica seria che esiste. Quindi Toir sarà probabilmente intorno a fine ottobre, quando Moratti sarà chiamato ancora a staccare questo assegno multimilionario, l'ennesimo della sua carriera da presidente proprietario dell'Inter. Tutti convocati. Inter Juventus finirà 1-0 con un gol non gol di Jonathan, assegnato ma che poi risulterà non esserci. Enrico da Milano, perfido. Poi c'è chi scrive: metà della Serie A ha come presidenti gente che col calcio ci vuole guadagnare, Lotito, Ghirardi, Cellino, Pozzo, De Laurentiis, eccetera eccetera eccetera. Ci sono anche un paio di nomi in questo elenco di presidenti che stanno facendo bene. De Laurentiis sta facendo bene, fa bilanci attivi, fa risultati, ha riportato il Napoli a essere competitivo anche in Europa. Mi sembra ingeneroso dire che De Laurentiis con il calcio voglia solo guadagnarci. Vincenzo da Napoli, buon pomeriggio. Pronto? Prego. Mi sento, comunque dica. La sento un po' male. Dica, la sentiamo benissimo. Senti, io ho 70 anni. Sì. Io seguo il Napoli da 50 anni, 55 anni, ma io adesso dico la sciocchezza del mondo, ma non sarebbe opportuno giocare soltanto giocatori italiani? Eliminare questi stranieri, cioè sto dicendo una fesseria, ma anche Vincenzo, sì, sta dicendo una fesseria, non se la prenda, con il massimo rispetto. Il problema non sono gli stranieri, potrebbero arrivarne meno, potrebbero arrivarne di qualità superiore, però non è che di italiani buoni ne abbiamo poi tantissimi, quindi benvengano anche quelli che vengono da fuori e ci fanno divertire. In passato ci hanno fatto divertire di più di quanto sta accadendo negli ultimi anni, però dire che gli stranieri sono il male del calcio italiano mi sembra che sia una lettura non corretta. Sergio da Milano, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Ho telefonato per parlare degli europei di basket. Sì, no? Avremo tra pochissimo coach Peterson con noi. Prego, Sergio. Sì, in particolare di Bellinelli, diciamo, e di sì. Melli, che fanno rima, però diciamo. Sì. C'entra niente, ma la Bellinelli, insomma, la abbastanza particolare che abbia giocato così tanto tempo, perché ha fatto 11 punti ma tirando tantissimo, sbagliando infinitamente. Sì, ieri sera non avrebbe segnato nemmeno tirando in una vasca da bagno. Abbiamo preso un contropiede perché si è fermato a guardare l'allenatore. Però Sergio, Bellinelli è il leader di questa squadra e i leader stanno dentro sempre. Anche sostituito. Cousin monumentale in difesa, cioè rispetto a Melli che non ha giocato con passione agonistica, che poi è stato sostituito, Cousin è stato monumentale, ha fatto una stoppata che poi ci ha rilanciato proprio a livello negli ultimi minuti dopo subito dopo la stoppata su Nakpar di, da sì, parte per, di però Tutti. Io credo, Sergio, che non dobbiamo deprimerci, prima o poi una partita dovevamo perderla in questo europeo, è successo con la Slovenia, tra l'altro in condizioni ambientali particolari, chi ha visto la partita insomma se ne è reso conto, abbiamo intatte le nostre possibilità di arrivare ai quarti di finale. Io credo, Sergio, non si debba mai perdere di vista il punto di partenza, che è quella lunghissima lista di infortunati che ha reso impossibile il lavoro di Pianigiani. Abbiamo fatto un ottimo girone di qualificazione, non per questo dobbiamo illuderci che quella lista di assenti, che sono assenti che pesano, non esista più, altrimenti perdiamo di vista quella che è la realtà e poi si rischia di restare scottati, delusi, anche oltre i demeriti di una partita persa male e in una serata negativa, ma credo lo sappia lui per primo, di Belinelli. Grazie, ma comunque tra un paio di minuti ne parliamo con il coach. Vi ho detto che Allegri ha annunciato Kakà sarà titolare a Torino, sentiamolo. Ma a parte la disponibilità, la voglia di rimettersi in gioco, di dimostrare ancora che ha ancora tanto da dare e da fare, e soprattutto a livello professionale è un ragazzo eccezionale, perché passa la maggior parte della giornata qui a Milanello a curarsi e ad allenarsi, e credo che sia un bel esempio per molti giocatori qui dentro lo spogliatoio e soprattutto per i giovani. Kakà domani titolare con Balotelli e credo Matri, poi c'è il Celtic in Champions League, poi c'è Milan-Napoli. Io non so se Kakà sia in grado di fare 270 minuti in 8 giorni, però domani parte titolare. A proposito di Inter-Juventus, non parte titolare, ma tra qualche minuto sapremo se è nella lista dei convocati Diego Milito, sentiamolo. Poi casualità che il 14, dopo 7 mesi precisi dell'infortunio, ma non penso neanche alle date, mi godo il momento, mi sto allenando tutti i giorni con tanta voglia di poter rientrare il più presto possibile. Che un derby, perché sicuramente stiamo giocando contro una squadra che sicuramente è la favorita a vincere lo scudetto, perché sono i campioni in carica, perché è una grandissima squadra che noi rispettiamo, con un grandissimo allenatore. Siamo all'inizio, è vero, manca tantissimo, ma è una partita che ci può dare risposte a noi come squadra, e sarà una partita molto, spero, molto bella. Andiamo in Slovenia allora, la pallacanestro, andiamoci. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Ciao coach. Ciao ragazzi, amici sportivi, buongiorno a tutti. Abbiamo preso la prima musata, oggi come scrivono i giornali non fa troppo male, non so se è vero che non fa troppo male, di sicuro prima o poi sulla terra dovevamo tornare, seppure per qualche ora, speriamo. Ma non dimentichiamo che la squadra ha vinto 13 partite in fila, 8 l'anno scorso su 8, 5 su 5 quest'anno qui, e come dici tu, la legge dei grandi numeri prima o poi viene. La cosa che volevano dire con non fa troppo male che la squadra ha combattuto, la squadra ha giocato. Tu pensa che pur perdendo la battaglia dei rimbalzi di 17, cioè 45-28, hanno perso di solo 7 punti. Generalmente non è una cosa fissa, ma generalmente parlando, se tu perdi il rimbalzo, 17 rimbalzi, tu perdi di 17 punti più o meno. Ok, e generalmente non sempre così, ma generalmente può anche essere una regola che si sì, può qualche segnale c'è stato, anzi tanti segnali ci sono stati anche ieri, tutti con il dito, lo diceva anche un amico da casa prima, tutti con il dito a sottolineare le cifre della serata di Marco Belinelli, che è stato certamente un fattore negativo, però coach, mi sembra che per la prima volta abbiamo pagato soprattutto la stazza fisica, e questo è un limite strutturale di una nazionale che, io lo sottolineo ancora, è in Slovenia senza Bargnani, Gallinari, tutti gli altri infortunati, certo. Questo secondo me è segnale negativo, per la prima volta abbiamo pagato quello che è un nostro limite strutturale, sarà così anche domani con la Croazia, noi siamo questi. Esatto, io dico questo però, si è visto ieri nella partita, quando viene avanti Dragic e fa un passaggio lob a Widmar che prende schiaccia, cioè un alley-oop. Questo vuol dire che loro veramente hanno i lunghi che sono bravi e sanno sfruttarli, ok? E probabilmente l'Italia avrà imparato da questa qui, la prossima volta che proprio domani con la Croazia che devono affrontare i lunghi, si mettono ancora più impegno, ancora più un po' di tutto, ok? Quindi veramente cioè, la banda passata che avevo io, cioè, io mi ricordo quando ero a Navo, ogni singola palla che veniva ritirata, io ero il mio lavoro a bordo campo, io gridavo rimbalzi, taglia fuori, c'è cioè, qualcosa del genere, ok? Quindi e fa parte del gioco quando sei piccolo, più piccolo, ci richiedono sforzi, anche i piccoli devono tagliare fuori. Io dicevo a Mike D'Antoni, per esempio, Mike, vai per rimbalzi lunghi, guai lasciar loro catturare rimbalzo lungo, non lasciare niente sul campo, cioè, e tutti, io, sì, è un lavoro che va fatto di squadra, mancando yeah, i due o tre uomini yeah, sotto tabellone che possono fare la differenza, diventa un lavoro per tutti, bisogna dividere quei centimetri per tutti. Esatto. Coach, domani decisiva contro la Croazia, o possiamo anche pensare di giocarcela lunedì con la Spagna? Io tremo al solo pensiero di giocarci poi tutto in una serata. Però guarda, gli europei sono questi, non è un 2 su 3, non è un campionato di 27, di 30 partite, le cose. È una partita, ogni partita è la partita del secolo, se mi spiego, ok? Quindi è così, come dicono, ok? Quindi bisogna saper giocare la partita della vita, cioè, adesso, cioè, proprio senza tante storie, ok? E quindi non facile, però questo sono gli europei. Abbiamo letto gli articoli. Hai giocatore che è proveniente dall'NBA, Tony Parker così, Boris Dio così, un elenco di giocatori. Sì, sono NBA che sono anche gli altri che hanno qualche problema, non solo ad esempio Bellinelli. Esatto, perché, ma guarda, è logico, è logico. Una pressione 10 volte qualsiasi partita dell'NBA, compresi i playoff. Però sono 4 su 7, ok? Magari tu giochi la settima, ma tutte queste partite in Slovenia sono la settima partita. Invece la nostra partita della vita è domani 14:30 contro la Croazia. Grazie coach. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento con tutti i convocati versione fine settimana domani dalle 17, in diretta domenica dalle 17 alle 19. Un ringraziamento ancora a Franco Piantanida e Fabio Cantadori, un saluto anche da Giovanni Capuano, appuntamento domani.